Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento delle 14 qualche minuto con l'Europa. Oggi partiamo dal tema dell'evasione fiscale. Ogni anno si perdono miliardi di euro in evasione. Qui non parliamo dell'Italia, o quantomeno non solo dell'Italia, ma dell'Europa. Denaro che potrebbe essere utilizzato per i servizi pubblici, per le scuole, per gli ospedali. Le aziende oneste, come risultato, finiscono col pagare di più. Questo l'ha detto questa mattina il commissario agli affari economici Pierre Moscovici, commentando il pacchetto della Commissione UE per combattere appunto questo fenomeno. Il vicepresidente Valdis Dombrovskis, responsabile per l'euro e il dialogo sociale, ha detto: oggi compiamo un passo avanti per rafforzare la fiducia nell'intero sistema fiscale, rendendolo più equo e più efficiente. I cittadini devono poter confidare del fatto che le norme fiscali si applicano egualmente a tutte le persone, a tutte le imprese. Le società devono pagare il giusto, la loro giusta quota di tasse nel luogo in cui si svolge l'attività economica effettiva. L'Europa, ha detto ancora Dombrovskis, può essere un leader mondiale nella lotta all'elusione fiscale. Il raggiungimento di questo obiettivo richiede un'azione coordinata a livello europeo per evitare che i 28 Stati membri adottino ciascuno un diverso approccio. Intanto, mentre ancora, come dire, sentiamo gli echi della visita di Hassan Rouhani, il presidente iraniano, in Italia, il presidente iraniano ha iniziato la sua tappa successiva, dunque Parigi per una visita storica. Intanto però emerge proprio da fonti dell'Unione Europea che la Francia avrebbe appena chiesto ai suoi partner di considerare nuove sanzioni contro Teheran. Sentiamo perché. Sembrava ormai alle spalle il lungo inverno delle sanzioni contro l'Iran e invece arriva la notizia ancora non ufficiale che la Francia avrebbe chiesto ai partner europei nuove misure contro Teheran per i suoi recenti test missilistici. A rivelarlo è la Société Presse, che cita due fonti anonime, due funzionari quali avrebbero precisato come la richiesta sia stata formalizzata la scorsa settimana durante il Consiglio dei Ministri degli Esteri dei 28, pochi giorni dopo la revoca delle vecchie sanzioni per il programma nucleare. La proposta sarebbe attualmente l'esame dell'Unione Europea, anche se la maggior parte dei paesi la riterrebbe controproducente in relazione agli sforzi attuali per riallacciare, dopo il lungo gelo, legami politici e soprattutto economici con l'Iran, un mercato senza dubbio appetibile. Tutto questo poi accade mentre il presidente Hassan Rouhani arriva a Parigi, una visita storica sia perché si tratta del primo capo di Stato iraniano in Francia dal 99, sia perché in ballo c'è la firma di contratti miliardari con una ventina di aziende francesi. Pezzo forte l'ordine di 114 Airbus del valore di circa 9 miliardi di euro, primo assaggio di quanto potrebbe avvenire in futuro, visto che secondo gli esperti l'Iran nei prossimi 10 anni per rinnovare una flotta ormai vecchia dovrebbe dotarsi di almeno 400 aeromobili. Nel lungo termine poi l'Iran spera di attrarre nuovi investimenti e poiché gli Stati Uniti mantengono molte sanzioni bilaterali, a concorrere per il nuovo mercato sono gli europei. Una visita che però, come si diceva, rischia di essere rovinata da questa notizia. Per il momento nessuna conferma né dall'Unione Europea né dal governo francese. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Questo dunque per ciò che riguarda l'Iran nell'Europa, ma intanto ci sono novità anche sul fronte della migrazione. Come sapete, la decisione molto controversa della Danimarca di sostanzialmente fare partecipare i migranti ai costi sociali per la loro gestione, insomma, ha suscitato parecchie polemiche. Interviene Avramopoulos, dunque il responsabile per l'Unione Europea di questa questione, di questo aspetto della politica. Dice: è importante assicurare un trattamento umano e dignitoso a chi cerca protezione in Europa. Non possiamo dimenticare che molte di queste persone sono vulnerabili e che si sono lasciate tutto alle spalle per cercare un luogo sicuro. Così il commissario UE all'immigrazione Dimitris Avramopoulos, rispondendo sulla nuova legge approvata in Danimarca che prevede appunto un prelievo di soldi e beni ai richiedenti asilo. Queste dunque le principali notizie di oggi sul fronte europeo. Naturalmente vi ricordo l'appuntamento di questa sera. Continuiamo il nostro percorso nell'esplorazione degli europarlamentari italiani impegnati tra Bruxelles e Strasburgo, e tutto questo naturalmente intorno alle 21:30. Per adesso è tutto, la linea allo sport. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.